Salva Danaio. Bentrovati da Valentina Furlanetto, questo appuntamento con Salvadanaio. Mancano 6 giorni, non alla fine del mondo, ma alla scadenza fissata al 17 di dicembre per il pagamento del saldo dell'IMU. Sono ancora tanti gli italiani alle prese con i calcoli dell'importo dovuto per la tanto temuta imposta municipale. Calcolatrice alla mano, bisogna fare i conti con la rendita catastale e le aliquote fissate dai comuni, che vanno ad aggiungersi alle percentuali base fissate dal governo, e la possibilità di ottenere detrazioni. È possibile pagare tramite un bollettino postale, oltre che con il modello F24. Sono tanti però i casi particolari, i casi limiti, le eccezioni e tanti i dubbi che ancora in questi giorni ci state sottoponendo con mail, messaggi a cui speriamo di rispondere in questo ultimo appuntamento prima della scadenza. Ne è un esempio la nostra redazione, dove poco fa appunto un collega, Carmelo Lauricella, poneva proprio delle questioni sull'IMU, ma io stessa ho le mie perplessità, i miei dubbi su quello che dovrò compilare, e come è normale che sia cercheremo di sciogliere questi dubbi con i nostri ospiti che andiamo a presentare. Abbiamo Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Poi Enrico Maria Sironi, notaio del Consiglio Notarile di Milano, buongiorno. Buongiorno anche a voi. E grazie per essere con noi. Vi invito a chiamare all'800 24 00 24 o via SMS a porre i vostri quesiti, se ne avete, al 349 238 6666. Immagino che per tutti questi siano momenti, insomma, in cui si sta lì con questo modello F24, cercando di capire che cosa fare, come si compila, e anche cercando di capire come si risolvono alcuni errori che possono essere stati e fatti nella prima parte. Parliamo però, prima di buttarci a capofitto su questo tema di interesse veramente generale, visto le mail anche che sono arrivate nei giorni scorsi a Salvadanaio, vi ricordo tra l'altro che potete scrivere appunto via mail salvadanaio@radio24.it oppure parlare con noi attraverso Twitter @salvadanaio24 oppure anche nella pagina Facebook. Prima dicevamo di tutto questo, diamo uno sguardo a ciò che sta accadendo in borsa, perché chiaramente sono momenti molto delicati. Momenti delicati vista la giornata di ieri, le dimissioni di Mario Monti. Ieri, sapete, Piazza Affari ha chiuso a -2,2, c'era molta tensione con uno spread in costante rialzo. Oggi sembra che tutto questo sia stato almeno in parte archiviato da Piazza Affari. FTSE MIB in rialzo a +0,84%, la migliore in Europa. C'è anche probabilmente un rimbalzo tecnico. Sicuramente hanno fatto bene le notizie che arrivano dalla Germania, dalla Spagna. Nel primo caso la diffusione dell'indice ZEU, che misura il sentiment relativo ai prossimi mesi in Germania, che è risultato molto migliore delle attese. L'indice è a 6,9 punti a dicembre dal -15,7 di novembre, quindi buone notizie in Germania. Il DAX di Francoforte sale dello 0,46%, e poi l'asta in Spagna, dove sono stati raccolti 3,89 miliardi in aste di titoli di Stato 12-18 mesi, un target superiore al target massimo prefissato, che era di 3,5 miliardi. Si registrano tassi in calo, quindi bene anche questo dato. Dopo questo dato, lo spread BTP Bund è calato a 343 punti, oggi aveva sfiorato i 360, ma poi appunto è sceso. Tra l'altro lo spread invece tra i bonus, i titoli spagnoli e i Bund tedesco, è sceso sotto il 420 punti base. Domani, tra l'altro, tra domani e giovedì, è attesa un'asta molto importante per i bond italiani, vedremo per i BTP, scusate, italiani, e vedremo come andrà. Oggi negli Stati Uniti, tra l'altro, inizia la riunione del comitato esecutivo della Federal Reserve, che terminerà domani. Anche da qui ci si aspetta magari delle indicazioni. Ci sono state molte notizie in queste ultime ore, vi ha dato conto anche il giornale radio di questo, quindi il centro studi Confindustria sulla ripresa rinviata della crescita italiana, alcuni dibattito, come avete sentito, sull'importanza o meno dello spread. Quello che noi registriamo è appunto questa lieve discesa dopo il picco di ieri. Per quanto riguarda i titoli, allora sul mercato principale a Milano Autogrill è la regina oggi con un rialzo del 4%, in questo caso dopo la società guadagna dopo l'annuncio che il gruppo si è aggiudicato la gestione dei duty free spagnoli, un business da oltre 7 miliardi del quale appunto sta beneficiando il titolo. Lottomatica più 3,5, Mediolanum più 2,1, Saipem più 1,96, questi sono i migliori, Enel più 1,73%, Fiat più 1,09% in questo istante. Sono contrastate le banche che ieri avevano sofferto molto male, Mediaset meno 0,72%, la peggiore però è Fiat Industrial meno 0,92%. Euro sul dollaro 1,2966, e così si chiude la nostra pagina finanziaria di oggi. Torniamo al nostro tema, IMU che scade il versamento del saldo dell'IMU lunedì prossimo. Sono state dedicate già due puntate da Deborah Rosciani su questo, e complice la crisi ovviamente pagare sarà sempre più difficile, ma le cose sono rese ancora più difficili, come ci ricorda stamattina in questo speciale SOS IMU del Sole 24 Ore Cristiano dell'Oste, che abbiamo ospite. Sempre più difficile perché insomma ci sono molti dubbi, cosa compilare, come fare. Noi cercheremo di scioglierli e iniziamo subito da quello che ha scritto la nostra redazione in questa scheda. Manca ormai meno di una settimana al saldo della tanto temuta IMU. Entro il 17 dicembre tutti i proprietari di immobili dovranno saldare quanto dovuto tramite il modello F24 o con un bollettino postale. Chi è alle prese con il calcolo dell'imposta municipale deve fare i conti innanzitutto con l'incremento delle aliquote, che la maggior parte dei comuni ha deliberato per l'anno in corso. Sono pochi infatti quelli che hanno confermato quelle stabilite dal legislatore nazionale, 4 per mille sulla prima casa e 7,6 per mille sugli altri immobili. Oltre a rendere più salato il conto, questo contribuisce a complicare non poco i calcoli, visto che proprio per gli altri immobili vi è anche l'obbligo, a carico dei soggetti passivi, di suddividere correttamente l'IMU tra quota statale e quota comunale. Per chi è in possesso solo di un'abitazione principale, quindi la situazione più diffusa e più semplice, il calcolo dell'ultima rata si può invece riassumere in 3 passaggi fondamentali. Prima di tutto va applicata al valore catastale l'aliquota decisa dal Consiglio Comunale. Poi bisogna sottrarre dall'imposta dovuta per tutto il 2012 la detrazione di 200 euro, prevista appunto per chi possiede solo la prima casa. La detrazione può essere maggiorata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore ai 26 anni. Infine bisogna sottrarre quanto versato con l'acconto di giugno e con quello di settembre per chi ha scelto la suddivisione in 3 rate. A questo punto, nella situazione più semplice, la missione è compiuta. Purtroppo però, per molti i conti sono alquanto intricati e sono tante le variabili in gioco. Dalle abitazioni in comproprietà, ai doppi alloggi utilizzati come abitazioni principali, alle pertinenze come cantine, box e soffitte. E l'elenco potrebbe essere ancora lungo. Se vi è venuto un leggero mal di testa, è normale, perché insomma è abbastanza complicato in effetti. Cristiano Dell'Oste, e tu e i colleghi del Sole 24 Ore oggi insomma vi siete dati da fare per cercare di risolvere, sciogliere un po' tutti i dubbi in questo speciale SOS IMU. Tra poco sentiremo anche gli ascoltatori che ci chiamano all'800 24 0024, alcuni stanno già scrivendo al 349 238 6666. Quali sono le cose a cui stare più attenti in questa fase? Ma diciamo che sicuramente l'aspetto più complicato è quello della divisione dell'IMU, dell'imposta, tra la quota che va al comune e la quota che va allo Stato per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale, cioè in sostanza per la prima casa si può versare tutto al comune, per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e poi diversi dai fabbricati rurali strumentali, che sono un'ipotesi comunque minore, ecco, per questi altri fabbricati bisogna dividere tra Stato e Comune il versamento dell'imposta. E la cosa che complica parecchio il conteggio è il fatto che, mentre a giugno bastava fare a metà, adesso bisogna invece considerare che la quota dello Stato è sempre fissa, quindi tendenzialmente è uguale alla quota che abbiamo pagato a giugno e va calcolata in pratica con un'aliquota dello 0,19%, mentre al Comune va tutta la differenza, per intenderci. Questo è ovviamente un conteggio che complica non poco la ripartizione. Sì, certamente. Poi bisogna anche dare dei confini a questa casa abitazione principale, no? Ad esempio, notaio, ci sono dei casi in cui con il vecchio ICI si parlava di abitazione principale, ad esempio per una casa che era incomodato d'uso per i figli, invece non è più questo il caso. Esatto, questa è una delle novità più importanti, direi, della nuova disciplina. Per prima casa, per abitazione principale ormai si intende l'abitazione nella quale il titolare abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale. Devono sussistere entrambi questi requisiti. Qualunque altra situazione esclude dalla prima casa, salvo alcune eccezioni per quanto riguarda i coniugi separati. Ecco, ci sono anche appunto queste eccezioni. A proposito di coniugi separati, chi deve pagare? In caso di coniugi separati, se il provvedimento di separazione o l'accordo di separazione omologato dal tribunale prevede che una casa, per esempio di proprietà comune, venga assegnata in godimento ad uno dei due coniugi, normalmente quello a cui vengono affidati i figli, questa assegnazione equivale ai fini IMU ad un diritto di abitazione e quindi il debitore d'imposta diventa il coniuge assegnatario. Quindi l'assegnatario. Ci sono molti ascoltatori che, come dicevo all'inizio, hanno scritto a Salvadanaio. Ad esempio Roberto, che ci scrive questo: erroneamente ho compilato l'F24 per la conto IMU indicando il codice del comune errato. Posso rimediare a questo errore? In effetti, con questa seconda parte, con il saldo, insomma, molti si chiedono come possono fare se hanno il dubbio di aver fatto degli errori. Cristiano. Eh sì, questo è un caso abbastanza frequente purtroppo, addirittura una volta ci aveva scritto un lettore che aveva pagato l'IMU al comune di Cagli anziché al comune di Cagliari, per dire, perché evidentemente aveva utilizzato uno di questi generatori di codici catastali e non aveva completato correttamente la parola su internet. In questo caso come si corregge? Si corregge con una istanza presentata a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in modo tale che, visto che appunto l'F24 passa tramite il circuito, per così dire, statale, cioè non va direttamente al comune il denaro, in modo tale che poi a livello di Dipartimento delle Finanze si possa correggere il pagamento a un ente diverso, per l'appunto. Notaio Sironi, ci scrive Michelangelo su Facebook in questo caso. Michelangelo è un disabile e non dimora però presso un istituto e voleva sapere se può utilizzare agevolazioni previste per i disabili nel calcolo dell'IMU. Tra l'altro un altro ascoltatore, Giovanni, dice che il padre invece è portatore di handicap, ha diritto, chiede Giovanni, per l'abitazione ad eventuali deduzioni per IMU? Allora, mi scusi, non ho... In tutti e due i casi. Il secondo caso. Il secondo caso è il padre che ha portato, ovviamente è un SMS, quindi è molto stringato il messaggio. In effetti non si capisce se il padre portatore di handicap vive con il figlio oppure ha un'abitazione a sé stante. In ogni caso, per le situazioni dei disabili che abitano presso la loro dimora, come si devono muovere, insomma? Ci sono delle trazioni in questo caso? Allora, i disabili che abitano presso la propria dimora non ci sono agevolazioni particolari. In tema di disabili e di anziani, l'unica agevolazione che c'è, che deve essere peraltro prevista dal regolamento comunale, è quella di considerare come prima casa l'abitazione del disabile o dell'anziano ricoverato in istituto. In tutti i casi bisogna controllare bene il regolamento comunale. Nel caso invece di anziano disabile che vive nel suo appartamento, è una situazione tra virgolette normale, è la sua abitazione principale e quindi pagherà l'aliquota dell'abitazione principale con la detrazione dei 200 euro. Ecco, ci sono dei casi poi molto particolari, mi riferisco ad esempio alla situazione delle persone che vivono in Emilia Romagna e sono state vittime del terremoto, ma anche ad esempio dell'Aquila, no? Perché ci sono degli edifici inutilizzabili. In questi casi si deve pagare l'IMU, in quali casi sì, in quali casi no? Cristiano. Allora, diciamo che le due cose sono distinte, nel senso che per quanto riguarda l'Aquila c'è una sostanziale esenzione consolidata per gli immobili danneggiati, ed è una cosa che insomma era già acquisita. Sull'Emilia Romagna invece c'è stato un lungo braccio di ferro tra governo e maggioranza parlamentare, che è andato avanti per buona parte del mese di novembre, fino poi ad arrivare a definire sostanzialmente la sospensione dei pagamenti. Però ancora verso la fine di novembre c'è stato un chiarimento da parte del Dipartimento delle Finanze, che ha dovuto un pochino definire che cosa si intenda per fabbricato inagibile a causa del terremoto. In sostanza cosa vuol dire? Che alla fine le finanze hanno stabilito che per poter non pagare l'IMU bisogna che il fabbricato sia inagibile, loro dicono, per ragioni intrinseche, cioè proprio perché quel fabbricato è pericolante. Se invece è inagibile o inutilizzabile perché magari accanto al mio edificio ce n'è un altro che è pericolante, o perché il mio edificio si trova nella zona rossa e io non riesco ad accedere, allora a quel punto non scatta l'esenzione, ma si può avere soltanto la riduzione alla metà della base imponibile. Questo è l'orientamento che è stato dato. È chiaro. Abbiamo voluto anche accennare a questa situazione non solo perché esiste, ma anche perché, come sapete, Radio 24 anche questa settimana si occupa dell'Emilia, che riparte con una serie di appuntamenti. Tra l'altro vi preannuncio che venerdì 14 Focus Economia avrà una diretta da Mirandola, e ci sarà poi una trasmissione dalle 21 alle 23 di Taddia proprio su questi temi, e anche noi ovviamente ci preoccupiamo di quello che sta accadendo in Emilia Romagna. Torniamo subito dopo, chiedo a Gregorio da Roma, che è in collegamento, di avere pazienza, perché risponderemo subito alla sua questione. Salva Danaio. Siete di nuovo con noi a Salva Danaio, parlare oggi di IMU, di questa scadenza del 17 di dicembre. Tra l'altro, lo ricordiamo, dal primo di dicembre scorso l'IMU può essere versata anche con il bollettino di conto corrente postale approvato dal Ministero dell'Economia, oltre che con il modello F24. Cristiano Dell'Oste, il collega del Sole 24 Ore. Un collega tecnico, Carmelo, a cui ho fatto riferimento, mi poneva questa questione che magari interessa anche altri. Lui non ha ricevuto a casa l'F24, il padre dice invece che l'ha ricevuto a casa, è possibile? Dipende dal comune, ci sono stati alcuni comuni che con grande sforzo nel mettere in campo un'operazione di aiuto ai contribuenti hanno spedito, questo l'avevano già fatto alcuni comuni per l'acconto, penso per esempio in Trentino Alto Adige, hanno spedito a casa dei contribuenti i modelli F24, però attenzione, i comuni non sono tenuti a farlo, e anzi nella maggior parte dei casi non hanno proprio avuto la possibilità di farlo, perché magari hanno deciso le delibere cambiandole ancora nel mese di ottobre, quindi non ci sarebbero stati i tempi tecnici. Se non è arrivato a casa nulla, come accade nel 90% dei casi, forse anche di più, bisogna farsi i propri conti e compilare, interessarsi personalmente, certo. Esatto, esattamente. Non ci esime insomma da cercare da mettersi in possesso dell'F24 o appunto del bollettino postale e dal pagare. Certo. Possiamo dire anche una cosa, che per chi ha un po' di dimestichezza con internet e ha un servizio, un conto corrente online, con l'home banking si può pagare in modo abbastanza pratico l'F24 senza neppure dover andare fisicamente in banca. Sì, infatti questa è in effetti una cosa da ricordare. Gregorio da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Senta, il mio quesito è abbastanza semplice. Io sono residente a Sabaudia, provincia di Latina, e il comune non ha fissato aliquota IMU al 17 di dicembre, con quale aliquota pago? Grazie Gregorio, è un caso particolare, notaio Sironi. Direi che la risposta è tutto sommato semplice: se non è fissata l'aliquota comunale, quella si paga quella fissata dal governo. Quindi per la prima casa il 4 per 1000, per la seconda casa il 7,6 per 1000. Beh, fortunato insomma, no? Per certi versi sì. Carlo dalla provincia di Como, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Forse c'è un ritorno nel telefono. Forse deve abbassare la radio, sicuramente. No, è spenta. Ah, è spenta. Sto parlando con l'auricolare del telefono, forse è meglio toglierlo. Non lo so, Carlo. Qual è il suo quesito? Il mio quesito è abbastanza semplice, penso che rappresenti la maggior parte dei casi. Casa di proprietà, quindi mi sono messo lì a tavolino, rendita catastale per le varie aliquote, per 105, per 160, per l'aliquota comunale. Sia a giugno che anche adesso io vado a credito di una piccola cifra, però tutti mi hanno detto non devi fare niente, è giusto non fare niente, prima domanda. Seconda domanda, Nel caso dovessero cambiare, magari l'anno prossimo, io spero che sparisca, questa aliquota qua, c'è qualche possibilità di recuperare questo credito qua? Grazie, grazie Carlo. Cristiano. Allora, diciamo che la prima domanda, cosa deve fare? Non niente. Deve fare nulla. Non deve fare nulla, non deve presentare modello F24 e nemmeno bollettino postale. Poi attenzione, l'ascoltatore parlava di credito, in realtà non è corretto parlare di credito perché quella è una detrazione, quindi cosa vuol dire? Che la detrazione arriva fino ad azzerare l'imposta, la detrazione sono 200 euro in tutto l'anno, immaginiamo che l'IMU che a me risulta sia 50, tolgo la detrazione, vado in teoria a meno 150, però non è un credito e quindi quei meno 150 non me li ridarà mai ovviamente né il comune né lo Stato. Dopodiché se l'anno prossimo dovesse esserci invece un debito, siccome la detrazione è data per anno d'imposta su base annua, questa è la detrazione del 2012, quindi per quanto riguarda il 2013 se ci sarà un'imposta purtroppo bisognerà pagarla, insomma non si può riportare diciamo l'eccesso di detrazione da un anno all'altro per intenderci. Certo, chiarissimo. Diamo spazio a un altro ascoltatore, Bruno da Prato, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Dunque, la situazione mia è questa, un immobile con 3 comproprietari, mio papà per 4 sesti, io un sesto, mio fratello un sesto. Il comune di Prato che ha lasciato invariate le aliquote, sia di prima che di seconda casa. Mio papà è una persona invalida civile, ricoverata in una struttura in regime di lungo degenza e il comune ha deliberato le agevolazioni di cui parlava prima il vostro esperto. Sì. Inoltre l'abitazione dal 1 novembre è stata locata, mentre prima ci risiedeva solo mio papà. Come devo calcolare tutto l'ambaradan? Certo, grazie Bruno, grazie. Notaio Sironi. Allora, qui la situazione in effetti è complicata. Complicata, sì. In linea di massima direi che funziona così. Il papà è ricoverato in un istituto e fino al 31 ottobre la casa non era locata. Quindi, avendo il comune deliberato, come ci diceva l'ascoltatore, si considera abitazione principale ancorché il papà non abita effettivamente lì ma sta in casa di cura e si considera abitazione principale del papà, ritengo per l'intero, questa è una presunzione mia perché immagino che le quote 4 sesti, 1 sesto e 1 sesto derivano dal fatto che la casa era di proprietà del papà e della mamma, probabilmente la mamma è deceduta e hanno ereditato un sesto per ciascuno. E quindi al papà compete diritto d'abitazione, per cui la casa del papà vive in casa di riposo, si avvale di quell'agevolazione. Dal 1 novembre l'immobile è affittato, decade la possibilità di considerare l'abitazione principale, direi che decade anche il diritto d'abitazione, perché il diritto d'abitazione è il diritto di vivere nell'abitazione, non ti dà la possibilità di locarlo. Nel momento in cui l'hai locato, ritorniamo alla sfera dei 4 sesti, 1 sesto e 1 sesto, e quindi ciascuno, papà e 2 figli, dovrà pagare per i 2/12 con l'aliquota della seconda casa. In effetti complicata, comunque benissimo perché così abbiamo cercato di spiegarla a Bruno che speriamo insomma non faccia degli errori. Cristiano dell'Oste, in effetti anche via mail ci segnalano alcuni ascoltatori il fatto che sono stati fatti magari degli errori come dicevamo prima, no? Ad esempio ci scrive Paolo da Senigallia, dunque mia mamma ha da poco pagato attraverso l'F24 il saldo IMU per la casa concessa in comodato gratuito a me, quindi ha già pagato il saldo, per farle i conteggi ho però erroneamente ripartito l'importo assegnando il 50% al comune e il 50% allo Stato. È possibile fare un F24 in cui si travasa il credito verso lo Stato nel debito residuo verso il comune, oppure cosa devo fare? Ci chiede Paolo. Certo, guarda, questo è un caso che io temo si porrà molto, sarà uno degli errori più frequenti. Allora, diciamo subito che l'ipotesi di presentare un nuovo F24 in questo momento non è il caso. Quello che potrebbe tentare di fare il nostro ascoltatore è presentare un'istanza di nuovo all'Agenzia delle Entrate per correggere i codici tributo. Cioè, cosa ha fatto lui in sostanza? Siccome i due importi li ha pagati in due righi diversi del modello, ha messo un po' più di denaro nel rigo dello Stato e un po' meno nel rigo del Comune. Allora dovrà chiedere di correggere per quella fettina data in eccesso allo Stato il codice tributo, passandolo dal codice dello Stato al codice del Comune. Vado col condizionale, perché questa è una soluzione a cui sono arrivati gli esperti del Sole 24 Ore, perché non esiste in questo momento una procedura ufficiale. Diciamo che questa dovrebbe essere la soluzione corretta, anche se, come abbiamo scritto sul giornale, sarebbe auspicabile che in questi casi venisse definita una sorta di camera di compensazione tra Stato e Comuni, che si dividano per proprio conto il gettito anche nel caso di errori, perché poi l'ascoltatore ha fatto tutto giusto, ha fatto giusto il totale dell'imposta, ha pagato, ha sbagliato la percentuale, ha sbagliato a dividere, esattamente. Comunque diciamo che se fa questa via della istanza di correzione del codice tributo dovrebbe riuscire a metterci una pezza e a star tranquillo. In ogni caso può stare relativamente tranquillo, perché in qualche modo l'importo è stato pagato. Può anche far presente la cosa all'ufficio tributi del suo comune, in modo che, perché lì la contestazione potrebbe essere quella del comune, che dice ci hai pagato troppo poco, certo non dello Stato, dove lui ha pagato un po' di più. Comunque, almeno per quanto riguarda i messaggi, le telefonate che ci arrivano, insomma, la confusione, siamo ancora in mare aperto, le persone hanno i quesiti più vasti, in effetti c'è anche, oltre che la scocciatura di pagare, c'è anche la difficoltà nel compilare l'F24. Scrive Luigi via SMS, le more, se possiamo spiegare le more per il mancato pagamento, notaio. Le more per il mancato pagamento. Beh, intanto speriamo che intanto cerchiamo di pagare che sia meglio, visto che questa è una tassa che ovviamente ci va giù con difficoltà, ma insomma è una tassa e quindi va pagata, ecco, prima di tutto. Esattamente. E quindi ci sono anche delle more se non la paghiamo, no? Le more sono una sanzione pari al 30% dell'importo non versato. Peraltro, in caso di versamento effettuato entro i 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, quindi un quindicesimo del 30%, quindi la sanzione è ridotta giorni del 2% per ogni giorno. Sì, quindi per 15 giorni diciamo la mora un po' più bassa e poi sempre si alza sempre più. Ancora gli ascoltatori che ci stanno telefonando all'800240024, loro daremo la linea subito dopo la viabilità. Salva Danaio. Stiamo parlando con voi del saldo dell'IMU via mail, ci avete mandato molti messaggi di preoccupazione per la compilazione del F24, insomma di questo foglio che dobbiamo compilare cercando di stare attenti a non sbagliare, e con alcuni esperti stiamo cercando di sciogliere i dubbi delle persone che ci telefonano all'800240024. Oltre che preoccupazioni dal punto di vista della compilazione, c'è anche un certo scoramento. Almeno questo ci arriva via mail. Ad esempio Stefania ci ha scritto: ci troviamo a pagare per l'abitazione principale un saldo di 222 euro a fronte di un acconto di 98 euro, e quindi giustamente Stefania mette tutto questo a confronto con la crisi economica e dice sarà un Natale più povero. Anche questa è ovviamente una faccia di questa storia. Noi oggi però parliamo più che altro delle questioni tecniche legate alla compilazione dell'F24 del bollettino postale. Cristian dalla provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io ho una precisazione, perlomeno un avviso da fare. Attenzione agli F24 che mandano i comuni, perché nel comune dove ho la residenza e io la prima casa, me l'hanno mandato a casa, io l'avevo già calcolato online e eventualmente anche col commercialista, il comune me l'ha mandato errato. Completamente sbagliato, quindi sono andato in comune, ho verificato, mi ha detto... Può dirci qual è il comune? Il comune di Clerio, in provincia di Brescia. Sì, non per metterlo all'indice, ma così anche per segnalare, no, però, magari chi... non era sbagliato solo il mio, ho controllato, era sbagliato anche quello di mia madre, quindi probabilmente li hanno sbagliati tutti. Quindi l'avviso, controllateli prima di pagare, perché sono esattamente la metà all'incirca dell'importo dovuto. La seconda domanda invece era riguardo appunto al discorso della seconda casa, che io ho la seconda casa in un altro comune, sì, e nessuno mi aveva avvisato di sto discorso di pagare un tot al comune e un tot al governo, sì. Entrate. Perché sì, in effetti sull'anticipo che ho fatto a giugno ho versato il totale, suddiviso in due voci, non so perché, dal comune, ma entrando con il codice del comune l'ho pagato tutto al comune io. E stavo per fare la stessa cosa anche per il saldo, ma nessuno mi ha detto nulla di sta cosa qua all'ufficio tributi. Ah, ho capito. Lei si è rivolto all'ufficio tributi e nonostante questo, cioè, ha posto questa domanda? E anche sulla lettera che mi hanno mandato a casa. Mm-hmm. All'ufficio tributi mi dice le aliquote sono lo 0,85 per la seconda casa, detrazione, tutto il resto, non c'è segnato nulla riguardo appunto a questo appunto che va versato una parte al comune e una parte all'agenzia delle entrate. Grazie Cristian, grazie. Notaio Sironi. Notaio, in linea? Sì, ci sono. Sì, no, mi scusi, non so se ha sentito la questione che poneva il nostro ascoltatore, Cristian, ne poneva due in realtà. Una metteva allerta un po' gli ascoltatori sull'aver ricevuto il foglio F24 compilato dal comune, ricevuto a casa, e lui dice che era sbagliato il suo, quando ha rifatto i conti era sbagliato, non soltanto il suo. E poi poneva una questione sulle percentuali, insomma, del comune e dovute al comune e la percentuale invece è dovuta allo Stato. Non so se ha ascoltato la domanda. Sì, la domanda era quella. Io mi sentirei quasi di girare la palla a Cristiano Dall'Oste. Sì, mi pare che la risposta sia quella che in qualche modo dava lui all'inizio a un altro ascoltatore, ma chiederei appunto di rispondere a lui, e cioè di fare un'istanza all'Agenzia delle Entrate. Ho capito. Cristiano, sei d'accordo? Sì. Diciamo di sì, che quando c'è un codice tributo sbagliato lo si può andare a correggere. In questo caso di fatto si è pagato tutto il comune anziché allo Stato, e quindi in buona sostanza bisogna trasferire una parte dell'imposta allo Stato. E come la si trasferisce? Andando a correggere il codice tributo. Poi è chiaro che di problemi come questi, al di là degli errori commessi dal comune di Flero, io poi sono convinto che la stragrande maggioranza dei comuni non abbia mandato a casa nulla dei contribuenti, ma al di là di questo, al di là degli errori commessi, è evidente che dovrà essere individuato un meccanismo, come dicevamo prima, che consenta a Stato e Comuni di risolvere da sé le questioni di ripartizione del gettito, anche perché l'ascoltatore di prima si è accorto di aver sbagliato la divisione. Molti potrebbero in perfetta buona fede aver pagato tutto allo Stato, tutto al Comune, o aver fatto la divisione ma sbagliando il criterio, e non accorgersene mai, perché in qualche modo si può dare anche questa ipotesi, e quindi è chiaro che non si può poi andare a perseguire cittadini che comunque hanno in qualche modo pagato tutto il dovuto ma hanno soltanto sbagliato l'individuazione del destinatario. Questo mi sembra un principio base, diciamo, di civiltà giuridica, ecco. Tu Cristiano comunque sei dell'opinione che ci siano pochi ascoltatori o comunque cittadini che hanno ricevuto a casa l'F24? Sì, direi proprio di sì, direi che parliamo veramente di una piccola minoranza, più che altro per un problema proprio di tempi. Poi, visto che le cose andranno un po' a regime, magari l'anno prossimo, in vista dell'acconto, se i comuni riusciranno a non modificare le aliquote, potranno allora fare, come si faceva con l'ICI, delle campagne proprio di spedizione dei bollettini in modo un pochino più massiccio. E dico bollettini perché per chi fa, diciamo, il fai da te, per chi paga per proprio conto, il bollettino postale è un pochino più semplice del modello F24 da compilare, ecco. Poi chiaramente sì, se poi ci sono relativa, ecco. Sì, se relativa, e poi è più comodo l'F24, se capisco bene, quando si ha più case in diversi comuni. Esatto, questo caso non è certo possibile con un unico bollettino. Certo. Claudio da Vicenza, buongiorno. Le chiedo di essere rapido perché siamo in chiusura. Sì, proprio in merito a quello, buongiorno, proprio in merito a quello di cui discutevate ora. Anch'io ho commesso un errore nella ripartizione tra i codici 3918 e 3919, ho fatto metà e metà Stato Comune. Allora ho pensato, non l'ho pagato ancora, però ho pensato di compilare un modello F24 di ravvedimento operoso, e chiedo una gentile conferma, applicando una sanzione del 3,75% più gli interessi dal 16 di giugno alla data del 17. Dopodiché invece nel pagamento della seconda rata ovviamente ometto il versamento al comune che è già versato per intero nella quota maggiore di giugno. Grazie Claudio. Velocemente notaio Sironi, grazie. Se riesce. Avrei qualche perplessità. Mi pare che sia una cosa non disciplinata quello di compensare il versamento in eccesso fatto da una parte a giugno con il versamento di adesso. Mi pare che, non essendo prevista, qualche rischio lo presenti. Probabilmente può valere il consiglio di rivolgersi all'Agenzia delle Entrate e concordare una soluzione. Ho capito, grazie notaio Sironi per essere stato con noi. Io ringrazio, siamo proprio in chiusura, anche il collega Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Ricordo che oggi in edicola col Sole 24 Ore trovate lo speciale SOS IMU, che devo dire è molto prezioso per cercare di capire tutti i dettagli. La redazione Marco Lombardo, in regia Gianmarco Ferronato, e poi saluto Francesco che ci scrive via mail. I Maya hanno previsto la fine del mondo per il 21 dicembre nel caso avessi già pagato il saldo IMU entro il 17 come prescritto, e nel caso di scomparsa dalla terra ho diritto a un rimborso? Bella domanda, ci sentiamo domani.